Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buonasera e bentornati a Focus Economia. 349-238-6666 è il numero, come sempre, per i vostri SMS. Anche oggi in mia compagnia i temi che affronteremo in questa giornata. Sicuramente andremo ad ascoltare le voci dell'evento che si è svolto oggi a Roma, l'89esima giornata mondiale del risparmio organizzata dall'ACRI, l'associazione delle fondazioni bancarie e delle casse di risparmio. Voci interessanti, perché ci sono quelle del ministro dell'economia Saccomanni, ci sono quelle del governatore della Banca d'Italia Visco, temi interessanti perché riguardano in generale l'economia del paese ma anche la situazione delle nostre banche. Toccheremo anche il tema di Fiat, oggi conti e soprattutto target per il 2013 non particolarmente positivi, o almeno che non sono piaciuti al mercato, che ha punito pesantemente il titolo, tanto che l'amministratore delegato Sergio Marchionne ha detto pochi minuti fa che la reazione della borsa, la reazione dei mercati non è giustificata da come sono effettivamente i conti. Parleremo di questo e parleremo anche di un'altra vicenda della FIPE. Cos'è la FIPE? La Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, e ha deciso oggi la disdetta del contratto perché non trova un accordo con i sindacati. Da notare che qualche settimana fa l'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, ha preso un'analoga decisione per quanto riguarda il contratto dei bancari. Qua si tratta naturalmente di una fase di trattativa che ancora deve andare avanti, ma in qualche modo domani arrivano a compimento due vicende che hanno elementi di parallelismo, perché in entrambi i casi le aziende stanno mirando ad ottenere maggiore produttività, molto semplicemente, collegando questo evidentemente ai salari. Questo per quanto riguarda la parte datoriale. Naturalmente la parte sindacale protesta, e dicevo che arriviamo ad un punto importante perché domani ci sono due proteste contemporanee, cioè protestano sia i lavoratori dei pubblici esercizi quanto i bancari, che scenderanno in piazza. Tra l'altro è la prima volta, se non erro, che i bancari scendono in piazza. Infine ci occuperemo di mercati come sempre, con lo spazio dedicato alla borsa. Borsa che oggi è negativa, il FTSE MIB cede 0,5%, il FTSE All Share lo 0,4%, in un ambito europeo negativo ma non così negativo, -0,10% per il CAC 40 a Parigi, Francoforte cede lo 0,09%, Londra lo 0,11%. Da tenere presente che ieri è andata Milano molto meglio delle altre piazze finanziarie europee, ma parleremo in realtà del mercato dei titoli di Stato. Oggi ci sono state due aste importanti, perché erano aste di titoli di Stato a 5 e a 10 anni, e sono aste che sono andate bene. Nonostante questo, oggi lo spread, ossia la differenza tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, è tornata a crescere. Vedremo di fare un punto su tutto questo, cioè capire in che condizioni siamo, perché le aste di titoli di Stato stanno andando bene e che cosa possiamo aspettarci. Da non dimenticarsi, tra poco ascolteremo anche la voce di Saccomanni su quello che si aspetta dal punto di vista dei titoli di Stato per i prossimi due anni. Da non dimenticarsi che la stessa Corte dei Conti ieri, e ve lo abbiamo già ricordato, ha detto al governo: attenzione, potreste aver sottostimato, ed è una cosa positiva questa in realtà, i benefici dell'andamento della riduzione dei rendimenti dei titoli di Stato, e quindi potreste trovarvi in cassa più soldi di quanti non crediate. Parleremo di questo più avanti, tutto questo nella seconda parte. Iniziamo come sempre dalle notizie in breve di oggi. Come sempre le materie prime, da qua che iniziamo. L'oro sale dello 0,6% a $1,353 l'oncia. Dal petrolio ancora segnali di calo, meno 0,87% sul WTI, quello quotato a New York, con consegna a dicembre a 97,35 dollari al barile. Brent invece in risalita dello 0,43% a 109,48 dollari al barile. E a proposito di petrolio, c'è la trimestrale dell'Eni che chiude i 9 mesi del 2013 con un utile pari a 5,81 miliardi di euro, in calo del 5,8%, e il terzo trimestre a 3,99 miliardi più 61,9. Nel terzo trimestre l'azienda ha registrato una produzione pari a 1,650 milioni di barili al giorno, inflessione del 3,8% rispetto al terzo trimestre 2012 a causa degli impatti rilevanti degli eventi di forza maggiore, si legge, in Nigeria e Libia. Poi magari nei prossimi giorni sulla Libia ci torneremo. Ci sono le previsioni di Moody's sull'economia americana. Il PIL americano, dice Moody's, certo che è una forchetta pazzesca, scusate, ve la riferiamo per dovere di cronaca. Crescerà quest'anno fra l'1,5% e il 2,5%. Una forchetta di un punto percentuale. Almeno metteteci un calcolo delle probabilità, cioè riteniamo più probabile la fascia alta della forchetta rispetto alla fascia bassa. Per poi accelerare nel 2014 tra un più 2 e un più 3%. Anche qua, insomma, siamo nello stesso range, un punto percentuale di differenza. Che è notevole, capirete. La Spagna si conferma che esce da 2 anni di recessione. Il PIL del terzo trimestre ha segnato una crescita dello 0,1% dopo il meno 0,1% del trimestre precedente. Niente di eccitante, a dire il vero. Su base annua il PIL segna una contrazione dell'1,2% dopo il meno 1,6% precedente. Dati perfettamente in linea con le stime degli analisti. Per quanto riguarda l'Italia, abbiamo le parole del Presidente del Consiglio, poi sentiremo anche quelle di Saccomanni, del Presidente del Consiglio Enrico Letta, che conferma alla fine di quest'anno ci saranno i primi segnali di crescita reale. E poi rivendica le misure messe in campo dal 1° ottobre con 12.000 giovani assunti, dice, ascoltiamolo. Alla fine di quest'anno ci saranno i primi segnali di crescita reale. Le misure che sono state messe in campo per la lotta alla disoccupazione giovanile soprattutto, che è l'incubo principale, hanno cominciato dal 1° ottobre a dare i loro frutti. Siamo a un numero di 12.000 giovani che sono stati assunti con le misure che dal 1° ottobre, con il click day, sono state prese. Sono primi segnali, i segnali che l'anno prossimo la stabilità dei conti pubblici farà sì che sia il primo anno dopo molto tempo di crescita positiva. Insomma, io sono moderatamente ottimista, ma sono molto determinato a far sì che nulla rubi al nostro paese la possibilità di cogliere la ripresa. Così il Presidente del Consiglio Enrico Letta, Radio Anch'io. Tradizione giornaliera, la rispetta Federico oggi, mettendo tutto tra virgolette, però ci dice, come da tradizione giornaliera, ma non c'è Barisoni, come mai? Non c'è perché si è fatto male ad una gamba, probabilmente tornerà la settimana prossima. Mi chiedete se mi chiamo Spezia o Spetia, si scrive Spetia, si legge Spezia, abbiate pazienza, ma è così. Lo dico per chi mi vuole seguire su Twitter, insomma. Allora, sentiamo anche un altro esponente del governo, in questo caso D'Alia, il ministro della pubblica amministrazione, Giampiero D'Alia. Quelli che sono interessati alle procedure del decreto saranno prorogati, dalle amministrazioni si attueranno le norme del decreto. Quelli che invece non sono interessati, i contratti scadranno secondo il rapporto contrattuale singolo, quindi non ci possono essere ulteriori proroghe ex legge. Ha una dimensione di quanti possono essere interessati dalla proroga? Guardi, questo dipenderà dai concorsi che bandiranno le amministrazioni. Uno dei problemi che noi abbiamo riscontrato è non avere proprio questi dati, tant'è vero che col decreto abbiamo un censimento che ovviamente contiamo di chiudere nel giro di un mese, proprio per avere il quadro esatto di tutte le tipologie di rapporto flessibile che esistono nelle nostre pubbliche amministrazioni, che come lei sa sono tante e forse anche troppe. C'è partita la frizione sul file, non vi ho fatto la premessa su quello di cui parlava D'Alia, sta parlando dei precari della pubblica amministrazione, perché ci sono entro fine anno una serie di contratti in scadenza, sono alcune decine di migliaia, e la domanda era appunto se questi contratti sarebbero stati prorogati in attesa dei concorsi. D'Alia dice appunto che solamente chi rientra saranno prorogati, solamente quelli di chi rientra nei requisiti, e tra i requisiti c'è il fatto che abbiano fatto appunto almeno tre anni di contratti negli ultimi 5 anni. I titoli di Stato. Poi ci torneremo più avanti e vedremo di commentare e di capire che cosa sta succedendo. Dunque, il Tesoro ha venduto tutti i 3 miliardi di BTP a 5 anni, in scadenza a dicembre 2018. Rendimento medio sotto il 3% per la prima volta da aprile scorso, attestandosi al 2,89%, dal 3,38% dell'asta di settembre, tra l'altro. Quindi un calo forte. Domanda in crescita. È andata altrettanto bene ai BTP a 10 anni, sempre 3 miliardi di euro l'ammontare, sempre domanda in crescita, rendimento medio sceso al 4,11%, anche qua i minimi da aprile scorso, dal 4,5% registrato a settembre. E però abbiamo lo spread, ossia la differenza tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, in risalita a 250 punti, al massimo da 20 giorni. E da segnalare che il tasso sul decennale è superiore a quello dell'asta di oggi, al 4,19%. Le ultime due notizie, tra queste notizie in breve che vi diamo, riguardano l'ILVA, che in parte avete sentito anche nei giornali radio. È stata chiusa l'inchiesta, tra gli indagati per disastro ambientale c'è anche il presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, c'è anche un deputato ISEL di Sinistra Ecologia e Libertà, c'è il sindaco di Taranto. Secondo gli atti di accusa dei mesi scorsi, Vendola avrebbe tentato di far fuori, tutto tra virgolette naturalmente, il direttore generale di ARPA Puglia, Giorgio Assennato, che era una figura sgradita all'azienda. Accuse che naturalmente Vendola respinge. Ultima notizia, tema sindacale, tema di lavoro e tema di industria. Licenziamento per i 450 lavoratori dello stabilimento Ideal Standard di Orcenico di Zoppola, e siamo in provincia di Pordenone. Lo ha annunciato l'azienda dopo il fallimento delle trattative, in assenza di certezze sulla cassa integrazione in deroga che il governo si era impegnato a garantire. L'azienda ha annunciato l'intenzione di far partire la procedura di mobilità dal 1 gennaio. I sindacati hanno espresso sconcerto, hanno annunciato mobilitazione, e domattina la decisione sarà annunciata nel corso di un'assemblea, però è già nelle agenzie, quindi insomma, i lavoratori stessi già lo sapranno. Primo tema di giornata ancora, 349-238-6666 per i vostri sms, la giornata mondiale del risparmio. Chiedete se parleremo dello sciopero dei bancari. Allora, non proprio, ci vorrei tornare nella giornata di domani, perché domani lo sciopero dei bancari. Nel frattempo parleremo di un'altra vicenda, come già vi annunciavo all'inizio, che ha a che fare con questioni di rapporti tra organizzazioni datoriali e sindacati, ed è la decisione da parte della FIP, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, di dare la disdetta al contratto. Lo faremo più avanti, dopo le 18. C'è un filo che lega queste due vicende, naturalmente, come si diceva all'inizio, ed è la richiesta delle aziende di collegare alcuni istituti contrattuali, quantomeno, maggiormente alla produttività, o comunque richiedono maggiore produttività e quindi delle modifiche contrattuali anche su questa base. Ci torneremo. Allora, oggi l'89esima giornata del risparmio organizzata dall'ACRI, l'Associazione delle Fondazioni Bancarie e delle Casse di Risparmio. Molti interventi illustri. Il ministro dell'Economia Saccomanni, il governatore della Banca d'Italia Visco e naturalmente anche il presidente dell'ABI Patuelli, a proposito di bancari. Conferma la ripresa Saccomanni nel 2014, parla di accelerazione per il 2015 e dice: abbiamo le carte in regola per agganciare la ripresa. E poi parla anche dello spread, della differenza di rendimento tra i titoli di Stato italiani e tedeschi a 10 anni, e dice: calerà nel 2014 ancora in maniera ancora più consistente. Nel 2017, addirittura proiezioni di questa portata, comunque sentiamolo. Dopo una crisi economica senza precedenti, gli indicatori congiunturali disponibili segnalano ora che l'attività economica si è finalmente stabilizzata, avviandosi verso una graduale ripresa. Nelle stime del governo la contrazione del prodotto nel 2013 è pari all'1,8%. Per il 2014 invece si confermano le prospettive di ripresa dell'attività economica, la dinamica del prodotto sarà pari all'1,1%. La crescita del PIL si porterà sui livelli ancora superiori a partire dal 2015, prefigurando una graduale chiusura dell'output gap, che si raggiungerebbe circa il 2% nel 2017. Le previsioni di medio termine sono state effettuate sulla base di una valutazione prudenziale degli effetti delle riforme introdotte sino ad ora. Esse postulano la prosecuzione sia di politiche coerenti con gli obiettivi di consolidamento dei conti pubblici e in particolare di riduzione del debito, sia degli interventi di riforma strutturale previsti dalle raccomandazioni europee. Coerentemente si ipotizza una graduale riduzione del differenziale di rendimento sui titoli di Stato decennali rispetto a quelli tedeschi, a 200 punti base nel 2014, a 100 nel 2017, un livello comunque più elevato di quelli prevalenti prima della crisi. Voglio rassicurare naturalmente i bancari in ascolto, che poi domani vogliamo ovviamente rappresentare la vostra voce, insomma, perché già qualcuno mi scrive altro che produttività, venite voi a vendere televisori e smartphone in Unicredit, insomma, tranquilli, tranquilli, domani ne parliamo e come facciamo sempre lo faremo con il massimo equilibrio possibile. Almeno quello che cerchiamo di metterci, poi insomma il giudizio è aperto a voi. Dice ancora Saccomanni, a proposito della legge di stabilità, terremo conto di quello che ci dicono Banca Italia e Corte dei Conti. Le prime reazioni al disegno di legge sono state, come era prevedibile, di segno negativo. Si doveva fare di più, è mancato il coraggio, ci voleva una massa critica e altre ancora. Di passata vi assicuro che il coraggio di fare il ministro dell'economia e delle finanze in questo paese è enorme e quindi di tutto mi si può accusare tranne che di questo. I commenti ponderati che sono stati espressi dalla Corte dei Conti, dalla Banca d'Italia e dall'Istat al disegno di legge sono pertinenti e verranno tenuti nel debito conto, ma non inficiano la struttura della manovra di politica economica, e invito tutti gli interessati a leggere dettagliatamente gli interventi della Corte dei Conti, della Banca d'Italia e dell'Istat per trarre conferma di quanto ho detto. Ci scrivete a proposito di quello che dice Saccomanni in merito alla crescita, molti di voi in realtà già ieri, ma di che paese sta parlando il ministro? Allora, su quest'ultimo trimestre mi sembra che ormai si converga a dire il vero, tutte le previsioni convergono, a prescindere da quello che dice il governo, sul fatto che una micro ripresina ci sarà. Poi possiamo discutere all'infinito non solo sull'entità di questa ripresa, che è assai ridotta, ma anche e soprattutto del punto dal quale partiamo. Prendete solo il dato diffuso oggi dal Centro Studi di Confindustria. In ottobre la produzione industriale crescerà dello 0,4% rispetto a settembre. Però rispetto al picco pre-crisi, aprile 2008, il livello di attività rimane inferiore del 24,8%, cioè un quarto della produzione industriale in meno. E quindi si parla di questa micro ripresa, però è micro e soprattutto partiamo dal fondo del barile, per dirla così. Ed è proprio sulla modestia di questa ripresa che si sofferma il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco. Dice: si attende per un arresto della caduta del PIL nel trimestre e un ritorno a una crescita modesta nel quarto. L'incertezza resta elevata. E le piccole e medie imprese, beh, insomma, questo non ve lo devo dire io, sappiamo che di imprenditori in ascolto ce ne sono tanti, restano in maggiori difficoltà. Ascoltiamo Visco. Nella prima metà di quest'anno il prodotto ha continuato a diminuire, anche se a ritmi più contenuti. Nel contesto di una ripresa economica dell'area dell'euro, che è lenta e disuguale tra i diversi paesi, gli indicatori più recenti relativi all'Italia sono coerenti con l'arresto della caduta del PIL nel terzo trimestre e con il ritorno a una crescita modesta nel quarto. Ma l'incertezza resta elevata e quello che abbiamo visto è un'attenuazione nell'estate del calo della produzione industriale, con sondaggi che indicano, nel sondaggio della Banca d'Italia, che indicano che per circa metà delle imprese si sarebbe superata la fase più critica. Restano in difficoltà notevole quelle più piccole e meno orientate alle esportazioni. Anche l'accumulazione di capitale appare avviata verso un'inversione di tendenza. Nel secondo trimestre gli acquisti di beni strumentali hanno registrato il primo rialzo da oltre 2 anni. La prolungata caduta delle costruzioni, che sono molto importanti nel nostro paese, sta rallentando. L'accelerazione degli investimenti nella parte rimanente dell'anno e nel prossimo è condizione indispensabile per la ripresa della crescita economica. Essa dipende dal risparmio accumulato e a sua volta determina l'accumulazione di risparmio, la cui allocazione efficiente, equilibrata, influisce sugli investimenti e sulla crescita. Ha parlato di molto altro il governatore della Banca d'Italia, Visco. Innanzitutto ha fatto sapere, abbiamo parlato nei giorni scorsi dell'esame che ha avviato la Banca Centrale Europea sulla condizione patrimoniale sui bilanci delle banche. L'esame, ha detto, utilizzerà la definizione di crediti deteriorati, che è in linea con quella usata nel nostro paese, dice Visco. Aggiunge che non è necessaria la ricapitalizzazione delle banche e avverte gli stessi istituti di credito che l'aiuto massiccio della BCE non può essere permanente. Vanno proseguiti gli sforzi volti a riconquistare il pieno accesso ai mercati internazionali. Il ricorso massiccio alla liquidità della banca centrale non può costituire una modalità permanente di finanziamento delle banche. È un lending of last resort, non un lending of permanent resort. Le opinioni secondo cui il sistema bancario italiano avrebbe oggi forti necessità di ricapitalizzazione non sono però fondate. Recentemente il Fondo Monetario Internazionale, che il Presidente Guzzetti ha anche richiamato riguardo a un altro tema, ha pubblicato i risultati del suo periodico programma di valutazione del settore finanziario italiano e, come ho già avuto modo di rilevare, gli stress test condotti dal Fondo, come gli esercizi analoghi condotti in Banca d'Italia, mostrano che il sistema nel suo complesso è in grado di far fronte non solo alla debole evoluzione del quadro macroeconomico ipotizzata nello scenario di base, ma anche a uno scenario meno favorevole, caratterizzato da una crescita del prodotto cumulativamente inferiore di oltre 4 punti percentuali nel triennio 2013-2015. Dice Visco, le banche devono operare interventi decisi sui costi, inclusi quelli del lavoro, che rappresentano oltre la metà di quelli complessivi. E però dice anche, in questo ambito di taglio dei costi, non si potrà escludere una revisione decisa, anzi, va inclusa una revisione decisa delle remunerazioni dell'alta dirigenza. Sia gli stipendi dei manager. Poi Visco torna a chiedere alle fondazioni di non interferire negli assetti societari e nelle scelte imprenditoriali delle banche. E si rivolge ancora alle banche e dice: risentite di una crisi della quale non siete responsabili, ma soffrite di ritardi e negligenze nell'adeguare operatività, efficienza, qualità dei servizi. Insomma, poi sulla responsabilità delle banche nella crisi possiamo discutere. Lo stesso Patuelli, il presidente dell'ABI, vabbè, ma naturalmente non ci si poteva aspettare altro. Del resto è il rappresentante di categoria, dice: basta all'ingenerosa e preconcetta demonizzazione che cerca di scaricare ingiustamente sulle banche italiane la responsabilità per una crisi economica che viene anche geograficamente da lontano. Dice anche Patuelli che sono 1.167.000 le imprese, le famiglie, le persone, clienti in sofferenza delle banche italiane. Sentiamo dunque Patuelli. La crisi vede da 5 anni sempre crescenti necessità di nuovo capitale, che le banche rincorrono di continuo attraverso l'applicazione delle sempre più rigide regole internazionali e con la necessità di sempre ulteriori accantonamenti per far fronte alle sempre nuove perdite di crediti, soprattutto concessi alle imprese. Il bollettino statistico della Banca d'Italia ha indicato che sono addirittura 1.167.000 le imprese, famiglie e persone, clienti in sofferenza verso le banche operanti in Italia. È un numero gigantesco di un fenomeno sociale di massa, nel quale si evidenzia inoltre che di questi ben 982.000, quasi 1 milione, hanno debiti in sofferenza per importi inferiori ai 125.000 euro. È quindi ora di dire basta alla ingenerosa e preconcetta demonizzazione che cerca di scaricare ingiustamente sulle banche italiane responsabilità per una crisi economica che viene anche geograficamente da lontano. Scrive una ascoltatore, dopo aver fatto sentire Patuelli e Visco, ho 10 euro in tasca, sono disposto ad usarli per aiutare le banche, fatemi sapere. Allora, veniamo adesso ai mercati. Guido Maurino, Radio Core, Il Sole 24 Ore, ciao, buonasera, come stai? Bene, bene. Bene, giornata non particolarmente positiva, però ieri le cose sono andate... Sì, ieri le cose erano andate bene, oggi insomma si guarda con un pochettino più di attenzione a quello che succederà questa sera con la Fed per capire in che modo, in che misura, per quanto tempo vorrà continuare a sostenere l'economia americana acquistando asset e bond. Alle 7 per ora italiana dovrebbe uscire il comunicato ed è quello che un pochettino tutti gli operatori stanno aspettando. Sì, le aspettative di mercato naturalmente sono non per una riduzione, non per un taglio, no? No, almeno nell'immediato no, tutto dovrebbe essere rimandato al 2014. Anche i dati che sono usciti oggi sulla creazione di posti di lavoro negli Stati Uniti dovrebbero far pensare che per il momento non si muova nulla a livello della Fed. Ok, per taglio naturalmente non intendevo taglio ai tassi, lo dico per chiarezza con gli ascoltatori, un taglio degli acquisti di titoli di Stato e di asset da parte della Banca Centrale Americana. Quindi si diceva negativa linea di massima, FTSE MIB mezzo punto percentuale, FTSE All Share meno 0,41%, Parigi giù dello 0,09%, Francoforte dello 0,13%, l'America Dow Jones praticamente piatto, è 0,07% di calo, Nasdaq giù dello 0,37%, Standard & Poor's 500 giù dello 0,20%. Se dovessimo trovare quello che un tempo si chiamava caso di borsa, oggi forse sarebbe Fiat, direi, no Guido? Sì, anche perché subito dopo che sono usciti i conti il titolo era precipitato quasi verso un meno 6% in asta di volatilità. Poi nel corso della giornata ha recuperato leggermente, ha chiuso a meno 3%, è comunque uno dei titoli peggiori oggi a Piazza Affari. Il titolo ha pagato la revisione delle stime, una revisione al ribasso delle stime per fine anno e anche i conti del terzo trimestre, gli utili non sono stati soddisfacenti rispetto a quello che il mercato si attendeva. L'utile netto del terzo trimestre è stato di 189 milioni di euro contro stime di 265 milioni di euro, per cui insomma non dei risultati che sono piaciuti al mercato. Impatto anche su Exor naturalmente, meno 2,81%, tra l'altro di Fiat torneremo tra poco a parlare, come di consueto con Andrea Malan del Sole 24 Ore. Male anche Gtech, meno 3,23%. Sì, diciamo che il titolo comunque era cresciuto molto, nell'ultimo mese aveva fatto un più 10%, si era mosso a lungo sui massimi, per cui un pochettino di prese di beneficio erano anche nell'ordine delle cose possibili. Oggi però sul titolo ci sono stati alcuni report che citavano possibili modifiche regolamentarie sul settore dei giochi che potrebbero avere un impatto negativo su Gtech e anche questo è stato una delle cose che ha avuto un impatto sul titolo, che ha ceduto il 3,23% ed è stato il peggiore del listino principale del FTSE MIB. Male oggi anche Mediaset, sì Mediaset meno 2,7%. Sì, Mediaset ieri aveva corso molto, aveva guadagnato oltre il 4,5% dopo che l'amministratore delegato di Mediaset, Andreani, aveva lasciato intendere che ci potesse essere una fusione fra le concessionarie pubblicitarie di Mediaset e di Mondadori, quindi di Publitalia e di Mondadori Pubblicità. Oggi la società ha però precisato che in realtà Andreani è stato almeno in parte frainteso, che non c'è nessun progetto di questo tipo allo studio e che al massimo si andrà verso maggiori sinergie. È stata una notizia, siccome ieri era stato un catalizzatore positivo, oggi per contro è stato un catalizzatore negativo e il titolo ha ceduto il 2,7%. Ci fermiamo un attimo, andiamo a sentire cosa succede su strade e autostrade e poi ti porto invece Guido sui titoli che sono andati bene oggi. Allora, con Guido Maurino di Radio Cor, Il Sole 24 Ore, andiamo ai titoli che sono andati bene oggi. Partirei da Luxottica. Ieri, tra l'altro, abbiamo ospitato l'amministratore delegato Guerra qua a Radio 24, come ricorderete naturalmente. Ha diffuso i conti ieri. Gioca qualcosa anche questo, Guido? Gioca sicuramente questo, ma giocano anche le prospettive per la società, perché ieri Guerra ha detto, fra le altre cose, che il 2014 potrebbe riaprire la strada delle acquisizioni, ed è stato considerato oggi un segnale positivo dagli operatori, anche perché il livello del debito di Luxottica non genera preoccupazioni fra gli analisti, per cui ci sono tutte le possibilità per il gruppo di andare sul mercato e fare nuove acquisizioni. Il settore rimane un settore interessante, quello dell'occhialeria. Abbiamo visto anche di recente altre acquisizioni anche da parte di marchi italiani come Marcolin, per cui insomma tutto questo insieme di cose ha fatto sì che oggi il titolo abbia guadagnato il 2,07%. Ebbene, anche Eni, più 1,44%. Poco fa abbiamo riferito agli ascoltatori dei conti di Eni, c'è altro però anche. Sì, c'è questo programma di buyback, quindi di acquisto di azioni annunciato dalla società. È un'operazione che in genere fa bene ai titoli, perché aumenta la redditività del titolo, ed è soprattutto su questo che oggi si sono concentrati gli operatori, che ha consentito questo più 1,44% a fronte di prospettive sul fronte dei ricavi, sul fronte degli utili, che anche per la congiuntura economica sono ancora difficili per questa ultima parte dell'anno. Grazie Guido Maurino di Radio Cor, Il Sole 24 Ore, buona serata e buon lavoro naturalmente. Buona serata. Guido. Ciao. Allora, gli altri titoli: World Duty Free più 1,13%, Autogrill più 0,6%, così come UBI Banca, Fondiari Assai mezzo punto percentuale di guadagno, così come il Banco Popolare, CNH più 0,45%, Diasorin più 0,44%, Mediobanca più 0,3%. Tra i titoli in negativo, Digitech, Fiat, Exor e Mediaset vi abbiamo detto, Azimut giù del 2,6%, così come Finmeccanica, Pirelli 2 punti percentuali di calo, 1,6% per Salvatore Ferragamo e Tenaris, ST Microelectronics 1,5% di calo, insieme a Buzzi Unicem, Campari, Tots, Atlantia ed Enel. Giù dell'1,4% A2A, la Popolare Emilia Romagna altrettanto, di poco più dell'1% Generali, Snam, Monte dei Paschi e Mediolanum, di poco meno Telecom Italia, Terna meno 0,83%, Enel Green Power meno 0,7%, così come Intesa San Paolo e Ansaldo. E giù dello 0,49% Parmalat, Unicredit dello 0,18%, Prismian dello 0,11%, Saipem dello 0,06%, Banca Popolare di Milano dello 0,02%. Ci chiedete migliori e peggiori di questa giornata: Screen Service più 9,29% e Digital Magix più 6,6%. E i peggiori invece, aspettate che ve li recupero: Maire Tecnimont meno 5,2% e Soft Strategy meno 4,47%. Veniamo a Fiat. Nel frattempo stanno arrivando le dichiarazioni di Sergio Marchionne. Andrea Malan, Il Sole 24 Ore, ciao. Buonasera. Buongiorno a tutti, buonasera. Buonasera. Allora, è stata una giornata contrastata, perché le cose sono iniziate bene, poi quando sono usciti i conti, almeno in borsa dico, quando sono usciti i conti, questi conti al mercato non sono piaciuti per niente, evidentemente, tanto che è arrivata addirittura una sospensione per eccesso di ribasso, la chiamo ancora così, ha un nome diverso adesso, vedrò di recuperarlo. Allora Andrea, conti deludenti quindi. Sì, facciamo una sintesi, mentre tra l'altro Marchionne sta ancora parlando con gli analisti, per cui non è escluso che ci sia qualche altra sorpresa. Comunque, quando sono usciti i dati Chrysler, che non ha ritoccato al ribasso le stime per fine anno, il titolo è schizzato verso l'alto, abbiamo visto più 3%, e ha riperso quasi subito. Poi all'uscita dei numeri Fiat il calo fino al 5-6%, mi sembra di ricordare, dovuto soprattutto al fatto che sono tagliate le stime per fine 2013. Sono tagliate non di molto, sono tagliate in parte, ha sottolineato più volte lo stesso Marchionne, dall'effetto cambi. In sostanza l'euro forte di questi ultimi mesi penalizza Fiat, perché la traduzione in euro degli utili fatti in dollari in America, sia del nord che in America Latina, cioè in Brasile, è penalizzata, cioè si riducono sia gli utili che i ricavi. Questo è indubbiamente un fattore, ma comunque c'è anche un impatto delle difficoltà operative di questi ultimi mesi. Ricordiamo per esempio che il debito è salito parecchio, è salito di oltre 1,5 miliardi di euro, per una serie di fenomeni che Marchionne ha definito anche temporanei. C'è stato un grosso investimento, un grosso peso dell'investimento per esempio in Brasile per una nuova fabbrica, ci sono state le difficoltà per il lancio della nuova Jeep Cherokee nel terzo trimestre, che dovrebbero essere state adesso risolte, che hanno portato appunto a un aumento del capitale di funzionamento, cioè una serie di fattori spot, il tutto però in un quadro congiunturale che, e Marchionne è stato molto duro su questo nella conference call, non vede alcun miglioramento in Europa. Marchionne ha detto di non prevedere miglioramenti significativi assolutamente né quest'anno né nel 2014, quindi fino alla fine del prossimo anno. Ciò nonostante va detto che proprio in Europa Fiat è riuscita un pochettino a migliorare i conti, è sempre in rosso, ma ha ridotto le perdite operative nel vecchio continente, e quindi c'è naturalmente principalmente sia per un lieve aumento delle consegne dovuto all'arrivo della 500L, che l'anno scorso in questo trimestre non c'era ancora, sia per il rigido contenimento dei costi. Sappiamo che Marchionne è molto abile in questo, gli investimenti sono tuttora tenuti sotto stretto controllo, sono iniziati quelli a Melfi, ma sappiamo tutti che stiamo aspettando ancora novità su Mirafiori ed eventualmente poi Cassino, e quindi la situazione è sempre piuttosto in bilico. Complessivamente il grosso degli utili continua ad arrivare dalla Chrysler, dagli Stati Uniti. Che oggi ha diffuso la trimestrale, tra l'altro, anche Chrysler, no, ovviamente. Esatto, il grosso degli utili continua ad arrivare da Chrysler. Anche qua Chrysler ha avuto, come ho già detto, un lieve impatto dal ritardo nel lancio della Cherokee, ha avuto una lievissima perdita di quota di mercato, ma rimane quello che potremmo definire la principale fonte di utili per il gruppo. Proprio per questo è tanto più importante risolvere la questione della proprietà di Chrysler. Sappiamo che Fiat ha il 58%, sta negoziando con l'azionista di minoranza che è il fondo Weber. Weber ha chiesto che sia avviato il procedimento per portare in borsa Chrysler. C'è un negoziato in corso, Marchionne ha detto stasera che potrebbe addirittura cercare di chiudere il discorso IPO entro la fine di quest'anno, quindi prima del previsto. Tra l'altro ti aggiorno, perché naturalmente se sei al telefono con noi non puoi sentire la conference call. Dice Marchionne: non cederò nulla, non penso sia necessario farlo, cedere gli asset appunto per pagare Weber. Per pagare Weber, sì, alcuni analisti avevano immediatamente dopo la diffusione dei conti e visto il consumo di cash nel terzo trimestre, avevano espresso qualche dubbio sulla una possibile crescente difficoltà di Fiat a finanziare l'eventuale acquisto della quota Weber. Sappiamo che si è parlato di 2, 3, 4 miliardi di euro di costo complessivo, il negoziato è ancora sul tavolo. L'unica certezza arrivata oggi è che Marchionne ha annunciato per aprile dell'anno prossimo, quindi tra circa 6 mesi, un aggiornamento del piano strategico. Per quella data, ha detto, il fumo dovrebbe essersi completamente dissolto, la nebbia, quindi dovremmo sapere esattamente come Fiat comprerà il resto di Chrysler, quando, a che prezzo, e quindi sarà in grado anche di fornire poi un quadro più aggiornato da lì ai prossimi anni, anche, ha detto, sugli investimenti nel nostro paese. Allora, io ti ringrazio Andrea Malan, e nel salutarti ti faccio un'ultima domanda in 5 secondi, veramente 5 secondi, che ci stiamo chiedendo, Paolo Corleone in regia, Mauro Del Corno in redazione, ci stiamo chiedendo: ma dove sei che si sentono un sacco di rumori, se non siamo indiscreti? Sono al Sole 24 ore, in un atrio. Nell'atrio del Sole 24 ore. Va bene, ci fermiamo, c'è una pausa, soprattutto c'è il giornale radio. Ci ritroviamo tra poco, parleremo della disdetta del contratto da parte di FIPE e poi di BTP. Ed Eccoci di nuovo buonasera care ascoltatrici e cari ascoltatori da Simone Spezia, benvenuti alla seconda parte di Focus Economia. Come annunciato in apertura, adesso parliamo di pubblici esercizi e di contratti. Ed eccoci dunque a parlare di questioni sindacali e di questioni di contratti, perché che cosa è successo? Che la FIPE, la Federazione Nazionale dei Pubblici Esercizi, ha comunicato ai sindacati il recesso al contratto nazionale di lavoro dei dipendenti delle aziende del settore turismo, con effetto dal 1 maggio 2014. Naturalmente c'è arrivata subito la replica dei sindacati. Dicono i sindacati, dice la CGIL, la Filcams CGIL, dopo mesi di trattative si pretende di abolire 14esima scatti permessi e stupirsi di incontrare la nostra indisponibilità, così la CGIL. Saluto Lino Stoppani, presidente di FIPE, buonasera, benvenuto. Buonasera, grazie per l'ospitalità. Ma davvero volete abolire 14esima scatti e permessi? No, è un concetto che va un po' articolato, se posso, approfittando. Ma prego, anche della prego, l'abbiamo chiamata. Allora, il motivo grave di questa decisione sofferta, forte, meditata, e al quale abbiamo fatto appello anche ai veri valori sindacali che richiedono anche responsabilità, sta nel fatto che c'è una grave situazione in settore, rappresentata dai numeri, aziende che chiudono, fatturati che calano, ultima riga del conto economico orientata verso il rosso, che impone interventi inderogabili su alcuni istituti contrattuali che generano retribuzioni in assenza di ore di lavoro e con l'obiettivo evidentemente di ridare efficienza e produttività al sistema delle imprese che sta soffrendo una situazione di grandissima difficoltà dal punto di vista economico. Allora, quando parliamo di ridare efficienza e produttività, è chiaro che bisogna poi declinare questo concetto. E declinare questo concetto per noi è stato quello di proporre al sindacato una rivisitazione di alcuni istituti contrattuali, tipo gli straordinari, tipo il ROL, tipo l'indennità di malattia, tipo gli scatti di anzianità, tipo la 14esima. Ma noi abbiamo detto anche al sindacato che se questi argomenti o questi istituti non vi vanno bene, proponeteci voi altri istituti. Quindi, con la quale si possa recuperare efficienza e produttività. Stoppani, quindi per capire meglio, voi dite sostituiamo a meccanismi automatici di retribuzione, come per esempio gli scatti di anzianità, magari oltre una certa soglia, o come magari la quattordicesima, dei meccanismi legati invece alla produttività. Questa è la sostanza. Esatto, per cui è chiaro che in un sistema con grande assorbimento di manodopera, come quello dei pubblici esercizi e delle aziende dei servizi che noi rappresentiamo, l'elemento lavoro è un elemento fondamentale, purtroppo, per quanto riguarda il nostro conto economico, che va gestito oggi con un atteggiamento molto diverso rispetto ai periodi in cui i conti economici di altre aziende presentavano saldi positivi. Oggi purtroppo sono diventati verso il segno meno e in rosso pesante, da qui una posizione, ripeto, presa con grande sofferenza, perché sappiamo che dall'altra parte abbiamo dipendenti e famiglie da mantenere, con quelli che sono i costi di gestione anche loro, che sono gravosi quanto i nostri. Ma di fronte a una situazione di questa difficoltà non si aveva un'alternativa se non quella di chiamare il sindacato a provare ad articolare un contratto collettivo nazionale di settore moderno dentro quelle che sono le nuove esigenze del mercato. Le altre associazioni datoriali, fatta salva l'Angem, anche se voi credo che rappresentiate la maggioranza di queste imprese, sì, hanno deciso di firmarlo in realtà il contratto con i sindacati, ho capito bene? No, non hanno deciso di firmare, a parte che riconfermo la legittimità della loro posizione di fare le cose che ritengono più giuste. Questa è la posizione della FIPE, che non pretendiamo che sia la posizione di tutti. Per cui so che le trattative stanno andando avanti, non so con quali prospettive, probabilmente queste imprese o queste federazioni hanno strategie, interessi, strutture organizzative delle loro imprese diverse dalle nostre. Noi pensavamo di poterlo fare insieme a loro e ci tenevamo, e abbiamo anche fatto un'espressa richiesta al riguardo, ma ripeto, in casa propria ognuno ha il diritto di fare le cose come ritiene più opportuno, insomma, per cui noi non pretendiamo di imporre scelte. Abbiamo fatto le scelte nostre con sofferenza e con la speranza però di poter ricavare in termini di produttività e di efficienza qualche punto di più per i conti economici della nostra impresa. Tra l'altro domani c'è lo sciopero dei sindacati dei pubblici esercizi. Tra l'altro, tra le prospettive e le conseguenze c'è anche evidentemente l'inizio di un'attività di agitazione del settore che ci preoccupa ovviamente, perché gli scioperi fanno male alle imprese, per cui li subiremo cercando quelli che sono gli accorgimenti necessari per limitarne i danni, ma ripeto, noi ci aspettiamo un atteggiamento responsabile da parte delle organizzazioni sindacali. La presentazione di Zeta aveva anche un significato collegato ad un passaggio tecnico che scadeva il 30 di ottobre. È chiaro che dopo il 30 di ottobre con la disdetta non finisce una storia di relazioni sindacali improntate anche a tanti valori. Grazie a Lino Stopani, presidente di FIPE, la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, per essere stato con noi. Buonasera. Grazie per l'ospitalità e buonasera a voi. E ci scrivete, fate parlare solo la parte datoriale. Qualcun altro scrive: siete servi dei potenti. Ma guardate, domani c'è lo sciopero, tanto del personale dei pubblici esercizi quanto dei bancari. E domani uno spazio lo dedichiamo a queste due categorie. Ma insomma, non perché ce lo chiedete via SMS, semplicemente perché è giusto così. Sentire anche l'altra campana. Adesso ci prendiamo una pausa per la viabilità, ci ritroviamo subito dopo e torneremo a parlare di mercati, perché oggi sono state le aste dei titoli di Stato, lo spread è comunque in risalita. Vediamo di capire che cosa sta succedendo, tra poco. Chi si fosse messo in collegamento adesso e che lo chiede, Barisoni torna, non vi preoccupate. Invece, chi ci dice come Andrea, che è un bancario appunto, cioè noi scioperiamo, anche per i banchieri il costo del lavoro è un purtroppo, si tagliano i loro compensi, io lavoro per una banca con 4 vice direttori generali. Andrea magari ha pure ragione, però dipende da cosa fanno questi vice direttori generali, dipende da quanto è grande la banca, dipende da mille cose, insomma. Non applichiamo automaticamente il sentimento anticasta che sta permeando il paese anche alle aziende. Magari ci sono aziende che con molti alti livelli riescono a funzionare bene, a creare valore per gli azionisti, perché poi alla fine il tema è quello, eh? Comunque, su questi temi ci voglio tornare domani. Iuri Basile, responsabile parte obbligazionaria di Aletti, buonasera. Buonasera. Salve. Allora, con lei vogliamo parlare di titoli di Stato italiani, come avrete intuito. Allora, oggi ci sono state due aste, una per i BTP a 5 anni, il Tesoro ha venduto tutti e 3 i miliardi, la domanda è stata buona, rendimento medio sceso sotto il 3% per la prima volta da aprile scorso, al 2,89 dal 3,38 dell'asta di settembre, e ha venduto anche 3 miliardi di BTP a 10 anni, tasso giù al 4,11%, anche qua ai minimi da aprile scorso, anche qua un calo dal 4,50 registrato a settembre e anche qua buona la domanda. Abbiamo assistito a una giornata nella quale lo spread è risalito e il tasso del decennale si è discostato poi in realtà da quello dell'asta, è arrivato al 4,19%. Io le chiederei innanzitutto, come non tanto un commento sulle aste in realtà, ma come giudica questa fase, perché poi veniamo anche da una giornata come quella di ieri nella quale abbiamo ricevuto segnali positivi anche dall'asta dei semestrali. Che cosa ci dice? Cosa sta succedendo? No, infatti correttamente io slegherei il discorso, il movimento di mercato di oggi dei BTP dalle aste, anche perché le aste, come ha detto lei, sono andate molto bene, la domanda era forte, gli indici di copertura sono sui massimi degli ultimi sei mesi e c'è da aspettarselo, anche perché c'è una buona liquidità dovuta a rimborsi e cedole di BTP fino a 23 billion miliardi con la valuta dell'asta. Quindi sicuramente non è da ritrovare la giustificazione di questo movimento nelle aste. Più che altro c'è da valutare il fatto che lo spread tanto sia 250, però il rendimento è su livelli minimi e soprattutto è sui livelli di lunedì scorso. Quindi... Sì, questo per quanto riguarda l'andamento. Io vorrei sapere da lei però appunto che cosa sta succedendo, cioè come mai le cose stanno andando così bene, in particolare per quanto riguarda le aste naturalmente, ma anche i segnali che abbiamo ricevuto complessivamente dai rendimenti anche sul mercato, insomma sono stati abbastanza buoni in quest'ultimo periodo dopo anche quella tensione che poi è stata assolutamente parziale ed è durata molto poco, che abbiamo, alla quale abbiamo assistito dopo le ultime vicende politiche, insomma quella, la quasi crisi di governo, se così vogliamo chiamarla. Che cosa succede? Come mai vanno così bene le cose? No, ma infatti io slegherei il fatto che stiano andando bene dalla situazione idiosincratica italiana, non è sicuramente la situazione politica che sta tranquillizzando i mercati, piuttosto lo dice lo spread che sta a 250, non è un grande performance dello spread, ma è più che altro una performance dei tassi core, quindi tassi della Germania che sono scesi molto rispetto ai livelli che aveva raggiunto durante l'estate, quindi a questo punto direi che il rendimento italiano lo vediamo a questi livelli, soprattutto perché è sceso la base che è costituita dal rendimento tedesco, non è tanto un miglioramento della situazione italiana, mentre è sicuramente migliorata la situazione in Europa perché ci sono dei segnali di ripresa che si sta avviando, come ha visto oggi anche i dati in Spagna si può dichiarare la fine della recessione e anche la Spagna come la periferia di tutta l'Europa ha espresso delle buone performance a livello di titoli obbligazionari, quindi sleghiamo la performance dei BTP dall'andamento della situazione politica, che invece rimane incerta. Rimane naturalmente incerta. Allora, quindi sleghiamoli e però mi dica che cosa sleghiamo succede. Invece quello che succede in Europa. In Europa i mandati sono delle condizioni positive che stanno emergendo e soprattutto l'anno prossimo ci sono dei passi importanti verso una costruzione di una Europa più Europa. In un'area euro più Europa, quindi l'unione bancaria, l'asset quality review che è stata definita la settimana scorsa è sicuramente un passo importante che potrà portare delle certezze, ma è sicuramente una sfida che se l'Europa saprà cogliere vorrà dire che alla fine dell'anno prossimo avremo un meccanismo di vigilanza unitario e avremo anche una pulizia di tutto, una trasparenza sui bilanci bancari, quindi sono notizie positive che possono portare a un miglioramento sicuramente delle condizioni. Quindi in sostanza quello che ci sta dicendo è che gli investitori in questo momento, anche internazionali naturalmente, internazionali intendo da fuori Europa evidentemente, insomma, no? Stanno mettendo denaro in Europa a prescindere dal singolo paese quasi, no? Cioè, no, fanno semplicemente, giudicano in questo momento buono investire nell'Unione Europea. Assolutamente, soprattutto perché partono da una posizione in cui i loro investimenti in Europa erano molto bassi, quindi stanno cercando anche di recuperare i livelli di investimento che erano invece più normali. Loro hanno una partenza da una posizione di sottopeso in questo momento qua, quindi sono più interessati all'Europa in generale e ovviamente dato nonostante la situazione politica italiana il rendimento del BTP comunque interessante, porta comunque un buon rendimento e soddisfa sicuramente le attese dell'investitore. In sostanza, e quindi non stanno distinguendo tra paesi cosiddetti periferici e paesi non periferici in realtà in questo momento, al di là del fatto che la distinzione sia già insita nella differenza di rendimento, questo benedetto certo. spread del quale parliamo quotidianamente, però in realtà in questo momento non stanno distinguendo, o distinguono poco. Diciamo che i due movimenti sono diversi, insomma, quelli che ritornano a investire in Europa sicuramente cercano più, hanno più interesse a investire nella periferia perché, come abbiamo detto, ha più rendimento, mentre la buona performance della parte core, della parte tedesca, è invece legata al fatto che dopo la Fed, la riunione della Fed di settembre, sicuramente i tassi free risk tedeschi e americani sono tornati su livelli più bassi rispetto a quelli che avevano invece visto durante l'estate. Quindi sono due fattori slegati che però portano ad avere uno spread abbastanza costante e due rendimenti, sia italiano che tedesco, a livelli più bassi. Basile, quanto c'è di segnali dall'interno invece, ossia banche italiane che continuano a comprare e risparmiatori italiani che ricominciano a comprare titoli di Stato? Beh, gli risparmiatori italiani invece in verità non sono mai spariti del tutto. Le buone performance delle aste o dei collocamenti dei BTP Italia, per esempio, ne sono la dimostrazione. La stessa BTP Italia che invece verrà collocato questa settimana prossima ci darà un altro segnale in questo senso. Quindi sicuramente il risparmiatore italiano non è mai andato via. Invece gli investitori domestici in questo momento qua forse sono un po' meno presenti di quelli esteri, dovuti anche al fatto che, come abbiamo visto, verranno presi i dati di bilancio del 2013 per fare la verifica sulla qualità degli attivi finanziari delle banche, e quindi forse certe banche vorranno anche limitare la percentuale di BTP e quindi ritoccheranno un po' il loro portafoglio. Quindi l'investitore domestico tendenzialmente in questa fase qua potrebbe essere meno presente rispetto al passato. Ultima domanda, brevissimo le chiedo. Oggi il ministro dell'economia Saccomanni ha parlato di uno spread intorno ai 200 per il 2014. Le sembra un'ipotesi probabile? Si sì. sente sottoscriverla? Sì, assolutamente. Grazie. Non è detto che sia una discesa diretta verso 200, però sicuramente può essere. Grazie a Iuri Basile, grazie responsabile obbligazionario di Aletti, per essere stato con noi. Chiudiamo Focus Economia. Grazie Mauro Del Corno, Barbara Bianchi in redazione, Paolo Corleone in regia. A tutti voi per l'ascolto. Ci si sente domani con Effetto Giorno alle 13:00.